Speciale, la politica nel tunnel. La politica nel tunnel, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Ore di contatti ed approfondimenti tra il premier incaricato Enrico Letta e le forze politiche che hanno già garantito il loro appoggio all'esecutivo di larghe intese. Questa mattina un lungo faccia a faccia al Quirinale di Letta con il capo dello Stato, quindi l'incontro a Palazzo Chigi con Monti e questa sera forse il vertice con Berlusconi. Qualora non ci dovessero essere particolari ostacoli, il governo Letta potrebbe nascere già domani, la mattina Letta al Quirinale per sciogliere la riserva. Il pomeriggio poi il giuramento. Sarà una squadra, ha fatto capire più volte Letta, con un mix tra figure di primo rilievo dei partiti e giovani già pronti per affrontare le priorità del paese. Ai nostri ascoltatori chiediamo allora se hanno delle preferenze o dei veti sui nomi che circolano in queste ore. Ne cito alcuni: da D'Alema a Violante, Dalla, Gelmini a Schifani. SMS al 349-238-6666. Il Cavaliere nel frattempo è rientrato in Italia e ha riunito lo Stato Maggiore del Popolo della Libertà a Palazzo Grazioli prima di lasciare gli Stati Uniti. Intervistato dal TG.com, Berlusconi si è mostrato ottimista sulla nascita del nuovo esecutivo. Non vedo problemi seri da parte di Letta, c'è un atteggiamento molto positivo, il governo si farà, ha detto il leader del PDL. Sentiamo allora questo passaggio. Ho stato lungamente al telefono con i miei, mi hanno detto che le cose procedono bene, che non si è parlato né di ministeri né di nomi ai ministeri, ma che si è parlato soltanto delle cose che devono essere fatte e che sulle cose da fare da parte del presidente incaricato c'è stato un atteggiamento molto positivo. Quindi sono venuti via da questo incontro che è durato credo quasi due ore molto confortati. Sul programma mi è parso che non ci fossero problemi veri e naturalmente non possiamo pretendere che ci sia un accordo al 100%, però li ho sentiti molto confortati e anche Brunetta per esempio era assolutamente convinto del buon esito dell'incontro. Poi adesso vedremo, perché ecco, una cosa ho sentito che da parte del Presidente della Repubblica, che naturalmente sente questo come un governo basato sulla sua responsabilità, c'è l'indicazione di membri del governo che siano di nuova generazione con una notevole presenza di donne e quindi vedremo. Questo esclude naturalmente il sottoscritto, che però non ha mai avuto la voglia di entrare lì. Soltanto se fosse stato necessario mi avessero chiamato a un impegno, dato che ho preparato io tutto il programma durante la campagna elettorale che abbiamo diffusamente illustrato a tutti gli italiani per 40 giorni, se ci fosse stato bisogno di me io sarei stato naturalmente a disposizione, ma preferisco così. Queste dunque le parole di Silvio Berlusconi. Abbiamo sentito il Cavaliere per il momento esclude una propria partecipazione diretta all'esecutivo, ricorda però che è stato lui in campagna elettorale a tracciare le linee degli 8 punti programmatici del Popolo della Libertà. Un'altra notizia che ci ha dato il Berlusconi prima di partire dagli Stati Uniti è quella di un Popolo della Libertà comunque per il momento soddisfatto dei contatti, degli incontri con il premier incaricato Enrico Letta. Riforme istituzionali, ma tanta economia nel programma del Popolo della Libertà per le larghe intese, con un cavallo di battaglia che resta quello della abolizione dell'IMU per il futuro e la restituzione di questa tassa sulla prima casa per quanto riguarda il 2012. Abbiamo allora incontrato l'onorevole Luigi Casero, già sottosegretario all'economia, ci spiega l'importanza dell'IMU nell'economia. Ascoltiamo. Sì, si sta muovendo bene, devo dire, ha fatto delle affermazioni positive in una situazione molto difficile. Adesso vediamo il programma che verrà presentato. Le priorità sono il lavoro innanzitutto, il paese in un momento di crisi ha bisogno veramente di politiche strutturali per ridare più lavoro agli italiani, lo sviluppo economico fondamentalmente. L'economia deve stare al centro, perché per uscire anche da questa crisi sociale di prospettiva c'è bisogno che il paese ricominci a crescere su un futuro sviluppo, e quindi queste penso che siano le prime priorità legate al problema fiscale, che è il grande tema che colpisce il nostro paese. Ecco, il grande tema fiscale, l'IMU come entra in questa partita? Resta una questione di principio più che economica, o c'è secondo lei in effetti un'emergenza anche sulla prima casa? No, è una delle emergenze. Voi sapete che il settore immobiliare va malissimo, è uno dei settori trainanti del nostro paese insieme complessivo. Questo è una battaglia emblematica sul settore immobiliare. La crisi che c'è stata sia nelle costruzioni che nell'industria dell'arredamento, degli elettrodomestici, di tutto ciò che è legato all'immobiliare, ha come punta dell'iceberg questa IMU, che è stata recepita malissimo dagli italiani, al di sopra, recepita peggio che non il valore, l'entità complessiva, sono 4 miliardi. Ecco, per noi diventa una battaglia importante proprio rimuoverla, per far capire che da lì poi si deve intervenire complessivamente sul fisco. Una battaglia importante secondo Casero del Popolo della Libertà, che può partire dall'IMU per andare poi a tutte le altre priorità fiscali ricordiamo, storicamente per il Popolo della Libertà sono l'abbassamento delle tre aliquote IRPEF. Devo dire, guardando gli sms che stanno arrivando al 349-238-6666, che i nomi che ho fatto precedentemente per il governo, di cui si parla in queste ore, D'Alema, Violante, Gelmini e Schifani, non ce n'è uno che va bene ai nostri ascoltatori, ma quindi sono tanti i messaggi, ma tutti dicono no no a D'Alema, no no a Gelmini, Violante e Alfano no, fuori da un possibile governo. A questo punto sono costretto a ricordare anche altri nomi che vengono fatti in queste ore: Vietti alla giustizia, la Cancellieri rimarrebbe agli interni, all'economia Amato o Saccomanni Banca Italia, e poi per i ministeri economici rimanenti, dalle comunicazioni allo sviluppo economico, si fanno i nomi di Franceschini, di Giampaolo Galli o dell'ex sindaco di Torino Chiamparino. Quindi altri giudizi, se ne volete dare, al 349-238-6666. Dopo la spaccatura sul voto per il Quirinale, qui passiamo invece al Partito Democratico. Continuano i malumori nel PD, alcuni esponenti hanno minacciato di non votare la fiducia ad un esecutivo con i ministri del Popolo della Libertà. In un'intervista a Sky, Renzi oggi si è detto comunque convinto che alla fine il partito si ricompatterà e voterà la fiducia. Per il sindaco di Firenze è comunque prematuro parlare di espulsioni di eventuali dissidenti. Sentiamo allora questo passaggio. Io credo che si debba avere, come dire, un atteggiamento per cui se ne fa uno alla volta, per carità. Adesso facciamo il governo. Per come credo verrà fuori un bel governo. Certo, in una cornice difficile, di difficoltà oggettive, ma credo che il presidente incaricato stia lavorando bene, ovviamente con il sostegno delle forze politiche, con l'aiuto del presidente Napolitano, ma stia lavorando bene, perché è persona che conosce il valore di tanta bella gente in Italia che può dare una mano. Quindi questo governo, a mio giudizio, sarà un buon governo. Il governo che verrà fuori presenterà le proprie linee programmatiche alla fiducia, diciamo, al dibattito sulla fiducia. L'idea che già qualcuno dica io a prescindere non ti voto mi sembra sbagliato. Invito tutti i deputati del Partito Democratico ad ascoltare ciò che il Presidente del Consiglio Letta verrà a dire, andrà a dire in Parlamento, e poi cercheremo di capire le ragioni, cercheranno i dirigenti del partito di capire e le ragioni del dissenso. Oggi mi sembra un tantinello prematuro mettersi a dire io non lo voto comunque, allora io ti butto fuori. Intanto facciamo il governo, poi vediamo che dice e poi affronteremo il problema. Se vuole, però, una mia opinione, credo che la stragrande maggioranza dei deputati del Partito Democratico voterà la fiducia, perché e che questo non costituirà un problema per il Presidente del Consiglio. Se qualcuno la voterà, ci sono le sedi opportune dove fare la discussione. Ecco, parole quelle di Renzi, mi sembra, contrariamente agli ultimi tempi, volte alla mediazione sia per chi minaccia di escludere dal PD coloro che non voteranno la fiducia a Letta, e sia nei confronti invece di una sana contrapposizione che deve restare nel partito. Quindi un invito alla mediazione da parte del sindaco di Firenze. Di senso di responsabilità parla sempre dal PD David Sassoli, che parte nella sua intervista da un giudizio su come si sta muovendo Letta in queste ore. Mi sembra che ci siano le condizioni per la partenza di un governo autorevole, rinnovato. Mi sembra che ci siano le condizioni per un programma importante, in cui al centro, come è stato ricordato stamattina, ci sia l'Europa, l'Italia in Europa, l'Italia che può fare la differenza sulle politiche europee. E l'Europa ha bisogno di un'Italia che creda nell'Europa e nello stesso tempo sia un pezzo del motore della costruzione europea. Mi sembra che le condizioni ci siano, le disponibilità, ci deve essere un senso di responsabilità collettivo. Siamo in un momento davvero delicato della vita del Paese, abbiamo bisogno di un governo, abbiamo bisogno di rispondere alla grande emergenza sociale, e abbiamo bisogno di provvedimenti sul lavoro, abbiamo bisogno di far girare anche un po' di soldi perché le famiglie, le imprese sono allo stremo. Ecco, tutto questo ci mette nella condizione di davvero sperare che si apra una pagina nuova. Questo senso di responsabilità, secondo lei, è capito nel partito e soprattutto è capito dagli elettori? Sì, ho letto sui giornali qualche distinguo, ma mi sembrano piccole, poca cosa rispetto, diciamo, alla grande quantità di valutazioni che spingono perché il governo sia sostenuto in pieno. Questo deve essere sentito come un nostro governo. Mi sembra che il Presidente incaricato l'abbia detto con chiarezza: la grande questione sociale ed economica, ma anche la riforma della politica con tutto quello che comporta. Mi sembra questi due i capisaldi dell'azione di governo, anche perché sono i temi su cui una riforma del sistema abbiamo capito che è indispensabile. Nell'altro senso bisogna subito dare risposte alle grandi emergenze sociali, alle questioni economiche che sono rilevanti. E così Sassoli del PD. Tanti gli sms arrivati, mi dispiace non poterli leggere, ma il senso è quello di un governo con una larga presenza di giovani. La politica nel tunnel finisce qui, un saluto da Vincenzo Miglietta.